24° canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrata da Marzia Marianera. Purgatorio, 24° canto. Nel dirlandar, nerlandar lui più lento facea, ma ragionando andavan porte, sì come nave pinta da buon vento. E l'ombre, che parean cose rimorte, per le fosse degli occhi ammirazione traean di me, di mio vivere accorte. E io, continuando al mio sermone, dissi: ella sen va su forse più tarda che non farebbe per altrui cagione. Ma dimmi, se tu sai, dov'è Piccarda? Dimmi se io veggio da notar persona tra questa gente che si mi riguarda. La mia sorella, che tra bella e buona non so qual fosse più, trionfa lieta nell'alto Olimpo già di sua corona. Sì, disse prima, e poi, qui non si vieta di nominar ciascun, da che si munta nostra sembianza via per la dieta. Questi, e mostrò col dito, è Bonaggiunta. Bonaggiunta da Lucca, e quella faccia di là da lui più che l'altra trapunta ebbe la Santa Chiesa in sulle braccia. Dal torso fu, e purga per digiuno l'anguille di Bolsena e la vernaccia. Molti altri mi nomò ad uno, e del nomar parean tutti contenti, sì ch'io però non vidi un atto bruno. Vidi per fame a voto usar li denti Ubaldin della Pila e Bonifazio, che pasturò col Rocco molte genti. Vidi messer Marchese, che ebbe spazio già di bere a Forlì con men secchezza, e sì fu tal che non si sentì sazio. Ma come fa chi guarda e poi s'apprezza più d'un che d'altro, fei a quel da Luca che più parea di me aver contezza. El mormorava, e non so che gentucca sentivi o là, o vel sentì alla piaga della giustizia che si li pilucca. O anima, dissi io, che par si vaga di parlar meco, fa sì ch'io t'intenda, e te e me col tuo parlare appaga. Femmina è nata e non porta ancor benda, cominciò el, che ti farà piacere la mia città come com la riprenda. Tu te n'andrai con questo antivedere, se nel mio mormorar prendesti errore, dichiareranti ancor le cose vere. Ma dissi, veggio qui colui che fore trasse le nove rime, cominciando: donne che avete intelletto d'amore. E io a lui: i mi son un che, quando amor mi ispira, noto, e a quel modo che è ditta dentro vo significando. O frate, issa veggio, diss'elli, il nodo che il notaro guittone e meritenne di qua dal dolce stil novo ch'io odo. Io veggio ben come le vostre penne di retro al dittator sen vanno strette, che delle nostre certo non avvenne. E qual più a gradire oltre si mette, non vede più dall'uno all'altro stile, e, quasi contentato, si tacette. Come gli augei che vernan lungo il Nilo alcuna volta in aere fanno schiera, poi volan più in fretta e vanno in filo, così tutta la gente che li era, volgendo il viso, raffrettò suo passo, e per magrezza e per voler leggera. E come l'uom che di trottare è lasso, lascia andar li compagni e si passeggia finché si sfoghi la follar del casso, si lasciò trapassar la santa greggia forese, e dietro me cosen veniva, dicendo: quando fia ch'io ti riveggia? Non so, risposi io, quant'io mi viva, ma già non fia il tornar mio tantosto, ch'io non sia col voler prima alla riva, però che il loco u fui a viver posto, di giorno in giorno più di ben si spolpa, e a trista ruina par disposto. Or va, diss'el, che quei che più n'accolpa, veggio a coda d'una bestia tratto in ver la valle ove mai non si scolpa. La bestia ad ogni passo va più ratto, crescendo sempre, finch'ella il percuote e lascia il corpo vilmente disfatto. Non hanno molto a volger quelle ruote, e drizzò gli occhi al ciel, che ti fia chiaro ciò che il mio dir più dichiarar non puote. Tutti rimani omai, che il tempo è caro in questo regno, sì ch'io perdo troppo venendo te così, a paro a paro. qual esce alcuna volta di Gualoppolo cavalier di schiera che cavalchi e va per farsi onor del primo intoppo, tal si partì da noi con maggior valchi, e io rimasi in via con esso i due che fuor del mondo sì gran marescalchi. E quando innanzi a noi intrato fue, che gli occhi miei si fero a lui seguaci come la mente alle parol sue, parvermi i rami gravidi e vivaci d'un altro pomo e non molto lontani per essere pur allora avvolto in laci. Vidi gente sottesso alzar le mani e gridar non so che verso le fronde, quasi bramosi, fantolini e vani, che pregano e il pregato non risponde, ma per fare esser ben la voglia acuta, tien alto lor di sio e non nasconde. Poi si partì, sì come ricreduta, e noi venimmo al grande arbore adesso che tanti prieghi e lacrime rifiuta. Trapassate oltre senza farvi presso, legno è più su che fu morso da Eva, e questa pianta si levò da esso. Sì tra le frasche non so chi diceva, perché Virgilio e Stazio e io, ristretti, oltre andavamo dal lato che si leva. Ricordivi, dicea, di maledetti nei nuvoli formati che, satolli, Teseo combatter co doppi petti e degli ebrei calber si mostrar molli, perché noi volle Gedeon compagni quando inver Madian discese i colli. Si accostati a l'un di due vivagni passammo udendo colpe della gola seguite già da miseri guadagni. Poi, rallargati per la strada sola, ben mille passi e più ci portar oltre, contemplando ciascun senza parola. Che andate pensando sì voi sol tre? Subita voce disse, ond'io mi scossi come fan bestie spaventate e poltre. Drizza la testa per veder chi fossi, e giammai non si videro in fornace vetri o metalli sì lucenti e rossi, com'io vidi un che dicea. S'a voi piace montare in su, qui si convien dar volta, quinci si va chi vuole andar per pace. L'aspetto suo m'avea la vista tolta, perch'io mi volsi dietro a miei dottori, com'om che va secondo che li ascolta. E quale, annunziatrice degli albori, l'aura di maggio muovesi a olezza, tutta impregnata dall'erba e da fiori, tal mi sentì un vento dar per mezza la fronte, e ben sentì mover la piuma, che fe sentir d'ambrosia l'orezza. E sentì dir, beati cui alluma tanto di grazia, che l'amor del gusto nel petto lor troppo disir non fuma, e suriendo sempre quanto è giusto. Fine del 24° canto del Purgatorio.